In 24 ore, riferisce la Protezione Civile, è caduta la pioggia che cade in 6 mesi, sotto accusa la gestione del suolo, l'edificazione e la prevenzione. Il governo dichiara lo stato di emergenza, stanziati 20 milioni di euro per tamponare la situazione, almeno inizialmente. Priorità al salvataggio di vite e all'assistenza degli sfollati, dice Letta. Si sposta intanto la perturbazione, situazione critica in Calabria, dove è stato evacuato un villaggio sul mare nel Catanzarese. Debito ancora troppo alto, dice l'OCSE sull'Italia, e crescita debole anche nel 2014, più 0,6%. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. È una puntata, quella di oggi, che dedicheremo quasi interamente a quello che è successo in Sardegna, dove, come sapete, come vi abbiamo raccontato anche nei nostri giornali radio, si è abbattuto un ciclone, un vero e proprio ciclone che appunto ha fatto 17 vittime. Raccoglieremo le storie dal territorio, sentiremo le voci istituzionali e vedremo anche di scavare un po' più a fondo su tutto questo, sia dal punto di vista climatologico che dal punto di vista della gestione del territorio. Salterà in questa puntata, che è una puntata speciale, anche l'appuntamento con America 24 e con Mario Platero. Vi ricordo anche che dalle 18:30 andrà in onda un altro speciale di Radio 24 dedicato a quello che è successo. Vi ricordo anche la nostra pagina Facebook, sulla quale, se volete, potete scriverci segnalandoci alcune situazioni, anche situazioni di emergenza, se volete, www.facebook.com/effettogiorno. Abbiamo appena postato un paio di notizie indicandovi il link ad una pagina Facebook dove si può offrire alloggio e assistenza alle persone sfollate a causa dell'alluvione, poi una pagina Facebook più in generale sull'emergenza. Allora, iniziamo dalla cronaca naturalmente. Sono almeno 17 le vittime, tra loro 4 bambini. I torrenti sono esondati, le strade invase dall'acqua. 7 persone sono morte solo ad Olbia, che è tra le città più danneggiate. In alcuni quartieri l'acqua ha raggiunto l'altezza di 2 metri. Su una strada provinciale ad Olbia sono morte 3 persone a causa del crollo di un ponte sul quale stavano passando con la loro auto. Vicino allo stadio altre 2 persone, che stavano sempre viaggiando in auto, sono state travolte dall'acqua, così come è stato travolto dall'acqua un altro uomo in una frazione. La 6ª persona morta è stata trovata nella casa allagata. In provincia di Nuoro un'auto della polizia è caduta da un ponte, si suppone anche qua travolta dall'acqua, un poliziotto è morto, altri 3 sono gravi. Ad Arzachena una famiglia brasiliana, madre, padre, 2 figli, è stata trovata morta in uno scantinato. Iniziamo da Olbia dunque e ci colleghiamo con la collega di Olbia Notizie, Antonella Brianda, che ha seguito la situazione e continua a seguire la situazione. Allora, Antonella, qual è la situazione in questo momento? Qual è lo stato della città? In che condizione è? Salve, buongiorno. Beh, le condizioni della città sono sempre critiche, la pioggia per fortuna ha smesso di scendere, ci sta dando un tregua e sta facendo sì che gli uomini della Protezione Civile, tutti i volontari, stanno continuando a sgomberare le case. Il numero degli sfollati si aggira intorno alle 2000 persone solo a Olbia. Fa considerare poi quelli che ancora non sono riusciti, insomma, a essere stati raggiunti dalle pattuglie. Io sono in questo momento sono fuori dalla centrale operativa dove il comandante, il capo della Protezione Civile Gabrielli sta tenendo una conferenza stampa e quindi si sta parlando di come questo territorio, perché il territorio è vasto e ha delle zone che sono particolarmente rischio perché percorse da torrenti e come hai ricordato ieri da causa di un'esondazione un ponte è caduto, quindi ancora la situazione è critica. Perdonami Antonella se ti interrompo, quindi c'è la possibilità che alcune zone di questa provincia così vasta come la provincia di Olbia non siano state ancora raggiunte e quindi appunto non ci sia un'effettiva certezza su quello che è successo magari in alcune frazioni e in alcuni paesi? Sì, di alcune zone ancora non si ha ancora bene un bilancio, quindi magari sono state raggiunte ma non si riesce a capire quante persone effettivamente vivevano in quelle case, perché ancora non ci sono state delle segnalazioni dirette, ecco, questo è quello che sta emergendo, per cui si lavora per capire effettivamente quante sono le persone che in quel momento si trovavano in quelle zone e che magari i cui familiari ancora non si sono resi conto che non si sono fatti vivi, per cui veramente il numero dei dispersi continuano a dire imprecisato proprio perché non si riesce a capire effettivamente la portata di questo dramma. Ecco. Antonella, i racconti che sei riuscita a raccogliere, che siete riusciti a raccogliere con Olbia Notizie in queste ore, che cosa vi dicono? Sì, sono ovviamente drammatici. Ci sono state delle persone che ci hanno guardato in faccia e ci hanno detto: abbiamo perso tutto, ho solo quello che mi rimane addosso, e ti posso assicurare che quello che avevano addosso era un pigiama bagnato. Quindi sì, più o meno in tutta la città si respira, c'è un clima strano, veramente un clima di silenzio strano. Poi questo sole che ci riscalda, però ci ha lasciato tutti un po' così sconvolti. La maggior parte delle persone poi un po' per paura, un po' non lo so, per aiutare gli altri, si è riversata sulle strade e sta tentando con le pale, con mezzi di fortuna, di buttare via l'acqua, buttare via il fango. È veramente una situazione così, noi non l'avevamo mai vissuta. Senti, ultima cosa che ti voglio chiedere: dal lato dell'azione concreta, insomma, abbiamo capito, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco naturalmente stanno lavorando, però sta partendo anche insomma un movimento di solidarietà, no? Ci sono gli alberghi che hanno deciso di aprire le loro porte agli sfollati, dando disponibilità ad ospitarli, è così? Sì, perché il comune si è trovato impreparato, non si aspettava una cosa del genere, per cui veramente tantissime strutture recettive hanno aperto le loro porte e questa notte hanno ospitato centinaia di persone. Per l'ora di pranzo sia la Caritas cittadina che altri ristoranti, diciamo, di privati stanno distribuendo un piatto di pasta, nulla di più, acqua. Ci sta mobilitando molto tramite Facebook, i cittadini olbiesi si sono uniti, hanno creato vari gruppi, per cui anche per gli indumenti o per una semplice parola di conforto ci si sta ritrovando. Diciamo che si stanno muovendo forse, e non è una critica, però più i cittadini che le forze dell'ordine, anche se questa mattina all'alba sono arrivati quelli della Brigata Sassari, quindi è arrivato l'esercito, insomma si fa quel che si può. Grazie ad Antonella Brianda, giornalista di Olbia Notizie, che torneremo a ritrovare nei nostri appuntamenti della giornata. Tra l'altro avete sentito che il cellulare di Antonella in certi momenti prendeva male, ecco, ci sono molti problemi di comunicazione, com'è naturale in momenti come questi. In Sardegna la raccomandazione che sta girando in rete e che raccomandiamo anche noi, se ci fosse qualcuno naturalmente in ascolto nelle zone colpite, è di aprire le reti wifi, cioè togliete le password se avete delle reti wifi e consentite a tutti di accedere affinché si possa comunicare per l'emergenza un po' più semplicemente. Allora, noi tra poco torneremo alla cronaca e sentiremo altre storie dal territorio, e però vogliamo iniziare a capire un po' meglio che cosa è successo, soprattutto dal punto di vista del territorio. Insomma, è caduta tanta pioggia, come dice la Protezione Civile, in 24 ore, quella che cade in 6 mesi, ma come sempre in questo paese riemerge il problema della gestione del territorio. Allora, io saluto Anna Maria Martuccelli, che è direttore generale dell'ANBI, l'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Quanto dobbiamo a questa tragedia? Quanto è dovuta a una pioggia inusuale per violenza? Poi parleremo più avanti anche di questo, ne parleremo con il presidente della società di meteorologia, Luca Mercalli, e quanto anche a un'incuria del territorio. Ma ecco, io direi la prima osservazione che a novembre mezza Italia è di nuovo sott'acqua. C'è stata la Toscana, l'Umbria, l'Abruzzo, adesso la tragedia della Sardegna. Cambiano gli anni, senza contare Martuccelli la Calabria, sulla quale torneremo tra poco. Prego. A novembre, dico, finiamo sempre sott'acqua. Dal 1951 ad oggi il paese a novembre subisce le grandi alluvioni e il dissesto idrogeologico rimane proprio la grande ferita del territorio italiano, perché oggi il territorio italiano ormai ha una debolezza, una fragilità per cui bastano molte volte anche piogge meno intense di quelle che si sono registrate in Sardegna o in Calabria, perché si verificano frane, torrenti in piena, fiumi in piena, e qui danni agli abitati, danni alle imprese, danni alle strade, ponti che crollano, vittime, come è successo in Sardegna. In Sardegna. Allora Martuccelli, voi avete in mano anche, come dire, avete in mano, intendo dal punto di vista delle informazioni, anche la gestione di tutto questo, no? Dal punto di vista delle informazioni. Quanti allarmi avete lanciato negli anni su questo? Ma guardi, noi come ANBI sin dal 1966, quindi le parlo dell'alluvione di Firenze, iniziammo con fare un grosso convegno in Toscana lanciando l'allarme sulla fragilità del territorio del nostro paese, collegato con una situazione climatica che all'epoca era soltanto una situazione climatica che variava nel tempo e nello spazio tra nord e sud. La situazione poi della variabilità climatica negli anni si è molto accentuata, fino a diventare cambiamento climatico, e il territorio ne ha sofferto enormemente, per cui noi abbiamo circa il 70% dei comuni che hanno un territorio estremamente vulnerabile, abbiamo circa 22 milioni di persone che vivono in zone a rischio medio e 6 milioni in un territorio ad alto rischio idrogeologico. Si calcola addirittura che ci sia 1.260.000 edifici a rischio frane e alluvioni, ma di questi edifici la cosa più grave è che 6.000 sono scuole e 531 ospedali. Questa è la situazione del paese, quindi attesta una fragilità territoriale, una vulnerabilità molto diffusa. Martuccelli, molto rapidamente, ma c'è un'allerta specifica che riguarda la Sardegna, perché immagino che ci siano zone del paese sulle quali un po' più di lavori dal punto di vista del dissesto idrogeologico, della prevenzione dal dissesto idrogeologico, siano stati fatti. C'era una situazione specifica che riguardava la regione? Ma vede, non è che ci sono situazioni in cui si è intervenuti negli ultimi anni con dei programmi o dei piani organici. La nostra legislazione lo prevede, ma i piani per il riassetto idrogeologico, ossia azioni di manutenzione del territorio e quindi azioni di prevenzione, negli ultimi anni non sono stati realizzati, perché si è risposto invece soltanto all'emergenza di fronte alle alluvioni, e quindi naturalmente in questi casi, tra le disgrazie concernenti le vittime umane e il disastro di abitati, ponti e strade, si interviene sull'emergenza con la protezione civile, ma manca l'ordinarietà, quella che garantisce il territorio, perché manca l'azione di manutenzione e di prevenzione. Noi come ANBI abbiamo presentato 4 piani ogni anno sin dal 2010, un piano per il riassetto idrogeologico che prevede degli interventi cantierabili immediatamente, volti a risolvere le manutenzioni straordinarie più urgenti. Peraltro, nessuno l'ha mai presi seriamente in considerazione. Grazie Martuccelli, Anna Maria Martuccelli, direttore generale dell'ANBI, per essere stata con noi. Nel frattempo un paio di segnalazioni su un'altra, pur nella situazione, che è la situazione di emergenza, ve ne do conto, perché saranno temi che poi, dei quali poi si discuterà nei prossimi giorni, e riguarda il sistema di allerta, perché secondo quanto riferiscono le agenzie, alcuni degli sfollati di Olbia colpiti dall'alluvione dicono che nessuno li ha avvisati, e c'è un'indiretta replica del capo della Protezione Civile Franco Gabrielli che dice: il sistema di allertamento nazionale ha fatto il suo dovere. Anche là bisognerà vedere, insomma, la catena delle responsabilità progressivamente. Intanto ci colleghiamo con Roma e con la nostra Alessandra Schepisi, perché è stato proclamato lo stato di emergenza per la Sardegna, naturalmente, e sono stati stanziati già i primi soldi già questa mattina. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Diciamo subito intanto che il governo terrà alle 15 a Montecitorio un'informativa urgente sull'ondata di maltempo che ha colpito la Sardegna, quindi sentiremo anche come risponderà alle polemiche appunto di chi sostiene che l'allerta sia stata data in ritardo e, come hai detto tu, polemiche rispedite al mittente poco fa dal capo della Protezione Civile Gabrielli. Questa mattina il governo però si è mosso con un Consiglio dei Ministri Lampo convocato in via straordinaria che ha decretato appunto lo stato di emergenza in Sardegna, ha deciso lo stanziamento immediato di 20 milioni di euro. Al termine c'è stata una conferenza stampa di Letta, il quale nei prossimi giorni si recherà nelle zone colpite. In questo momento, ha detto Letta, la priorità è il salvataggio di vite, l'assistenza alle popolazioni sfollate. Ha parlato di tragedia nazionale, di drammatici numeri di morti e sfollati, ha assicurato però che la macchina dello Stato si è messa in moto, sarà massimo l'impegno delle istituzioni, spiegando appunto che la dichiarazione dello stato di emergenza è un atto giuridico fondamentale per consentire subito la possibilità di procedure accelerate. Allora sentiamo un passaggio di questa conferenza stampa. Abbiamo deciso lo stanziamento immediato per la immediata emergenza di 20 milioni di euro. Questa scelta ovviamente riguarda l'immediato intervento, non riguarda poi tutto ciò che avrà a che vedere con l'eventuale lavoro di ricostruzione, per il quale ovviamente c'è bisogno di avere poi più in là le stime necessarie. Sono stato in contatto stanotte, stamattina, con oltre che con il prefetto Gabrielli, anche con il presidente della regione e con il sindaco di Olbia, e naturalmente stiamo dall'inizio seguendo questa drammatica vicenda che ha delle dinamiche fattuali assolutamente straordinarie in termini di quantitativo di acqua che è caduta su quelle zone. E ovviamente l'impegno è l'impegno massimo, perché fin dall'inizio abbiamo capito che questa vicenda andava gestita con un impegno nazionale come quello, per l'appunto, che a partire dalla presenza del prefetto Gabrielli stiamo cercando di garantire. E grazie alla nostra Alessandra Schepisi. Ci fermiamo per la viabilità, anche in questo caso ovviamente dedicata in parte a quello che sta succedendo in Sardegna, e ci ritroviamo subito dopo. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. La Sardegna è investita da un vero e proprio ciclone, 17 almeno le vittime, colpite le province di Olbia, Nuoro e Oristano, strade interrotte, ponti crollati, scantinati e case allagate, rientra l'allarme per una diga. In 24 ore, riferisce la Protezione Civile, caduta la pioggia che cade in 6 mesi, ma torna sotto accusa la gestione del suolo, l'edificazione e naturalmente la prevenzione. Il governo dichiara lo stato di emergenza, stanziati 20 milioni di euro per tamponare la prima fase, priorità al salvataggio di vita e all'assistenza degli sfollati, dice Letta. Si sposta intanto la perturbazione, situazione critica in Calabria, dove è stato evacuato un villaggio sul mare nel Catanzarese. Ed eccoci di nuovo, Romeo Frediani, sindaco di Tempio Pausania, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Prima di andare da lei però sentiamo il ministro degli affari regionali, Graziano Del Rio, benvenuto, ministro, salve. Grazie, buongiorno a voi. Allora, 20 milioni di euro, come si diceva nei nostri titoli, per tamponare la prima fase, naturalmente sono soldi che non basteranno, sono quelli che servono proprio nell'immediato, insomma, per gestire il tutto. Diciamo che già sotto accusa, ministro, sta andando, come dicevamo nei nostri titoli, la gestione del suolo, perché è vero che un evento e una perturbazione eccezionale per dimensioni, probabilmente un tipo di perturbazione alla quale dovremo abituarci, no? E però è vero anche che il territorio non ha retto per nulla. Sì, è vero che questo è stato un evento assolutamente eccezionale, è caduto, come avete sentito dal prefetto Gabrielli, è caduto la quantità di acqua in una notte che cade in 6 mesi, quindi è chiaro che questo è stato davvero un evento eccezionale. È evidente che noi dobbiamo imparare sempre anche dall'eccezionalità di questi eventi, però dobbiamo imparare a considerare di più la fragilità del nostro suolo e quindi dobbiamo mettere in campo sempre di più le azioni che consentono da un lato di avere risorse a disposizione e dall'altro lato di spendere i soldi che già abbiamo a disposizione, perché già abbiamo fondi a disposizione di queste per la prevenzione di questi eventi, e quindi dobbiamo assolutamente utilizzare al meglio le nostre risorse e imparare da queste terribili tragedie, purtroppo, imparare davvero a prevenire per il futuro. Questo per quanto riguarda la prevenzione. Naturalmente, Ministro, immagino che non sia possibile già fare una conta dei danni adesso, no? No, è molto complicato, adesso siamo davvero concentrati su prestare l'assistenza alle centinaia di persone che sono evacuate, siamo concentrati fin da stanotte, il Presidente del Consiglio in prima persona a coordinare il lavoro anche della difesa, dei militari che si sono attivati in maniera molto, molto pronta da subito insieme ai volontari della Protezione Civile, adesso dobbiamo davvero pensare alle persone, a prestare assistenza, a ristabilire le prime comunicazioni, il lavoro dell'esercito e della protezione sta procedendo in condizioni molto complicate, ma comunque sta procedendo, e quindi siamo oggi siamo impegnati in questo. Si stanno attivando anche le altre regioni? Si stanno attivando sì anche le altre regioni, sono convinto che il Paese certamente non si farà superare in solidarietà, come del resto accade sempre, e quindi abbiamo bisogno di stringerci tutti intorno alla nostra amatissima Sardegna, di stringerci intorno ai morti, alle loro famiglie, alle città, ai sindaci che sono in prima linea, a cui va tutta la nostra solidarietà, il nostro sostegno. Questi 20 milioni sono l'inizio di un cammino che speriamo possa rapidamente portare a una normalizzazione della situazione. Grazie Ministro, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Romeo Frediani, sindaco di Tempio Pausania, come sono le cose dalle vostre parti? Ma chiaramente Tempio è una delle zone meno colpite, pur essendo con Olbia co-capoluogo della provincia che purtroppo non c'è più, però io sono qui ad Olbia per portare la solidarietà della mia città, di tutta la cittadinanza. Noi abbiamo avuto purtroppo tre vittime che rientrando da Olbia sono finiti dentro una voragine che si è la punta aperta ieri pomeriggio in seguito a queste precipitazioni che, come ha detto bene il Ministro, si possono registrare una volta ogni millennio, una volta ogni mezzo millennio. Sta di fatto che Olbia è una città in ginocchio e noi proprio vogliamo solidarizzare con tutto il territorio. Parlo di Olbia, di Alzachena, e quindi vogliamo essere vicini anche ai parenti delle vittime, anche ai nostri concittadini che ci hanno purtroppo lasciato questa tragedia immane, ma è tutta la Sardegna che è stata colpita in maniera longitudinale, quindi questo evento ha veramente messo in ginocchio, a parte le vittime che non hanno prezzo, però hanno messo in ginocchio la questione infrastrutturale che già era abbastanza debole, soprattutto nel nostro territorio. Per cui... Senta Frediani, sta iniziando a montare una polemica, come sempre avviene in questi casi purtroppo, insomma non si fa nemmeno in tempo a piangere i morti, però... Così è, sul sistema di allerta che in parte naturalmente coinvolge anche i comuni, ha l'impressione che abbia funzionato o non abbia funzionato? Allora, ormai noi siamo abituati a ricevere l'allerta meteo proprio per qualunque tipo di precipitazione, quindi poi spetta insomma a ogni comune all'interno della propria organizzazione, quindi della propria protezione civile locale, a fare in modo che le popolazioni vengano allertate, venga suggerito loro quali strategie seguire per evitare di subire danni soprattutto alle persone. Però con questi eventi eccezionali direi che è inutile, oggi bisogna avere il coraggio di piangere i morti, e la miglior maniera per ricordarli sarà quella senz'altro di investire in prevenzione. Io sono sostenitore che è meglio spendere oggi per prevenire che raccogliere poi le vittime domani. Questa deve essere una politica che ci deve contraddistinguere, e in tal senso mi è parso di capire. Salvo poi Frediani che, mi scusi a brutalità, lo dicono tutti e poi, cioè lo diciamo ogni anno, ad ogni novembre, e poi questa cosa non avviene mai. Io la ringrazio, grazie a Romeo Frediani, sindaco di Tempio Pausania. Altra situazione critica, non così critica come quella in Sardegna, è quella della Calabria. Dunque, Iniziamo a sentire una voce che abbiamo raccolto questa mattina in Calabria, appunto la situazione difficile è nel Catanzarese, dove è stato evacuato un villaggio sul mare. Alessandra Tedesco ha intervistato Palmiro Impera, che è il capo dei vigili urbani di Sellia Marina, dove si trova questo villaggio. Sentiamo il suo racconto. Abbiamo avuto effettivamente fino a un paio d'ore fa l'acqua alta almeno un metro in tutte le abitazioni nelle zone a mare, in modo particolare nelle località Ruggero, Riva Chiara. È esondato un torrente, il torrente Uria, a causa del mare grosso. Cioè, in sostanza il mare in scirocco era talmente gonfio che non consentiva al fiume di defluire nel mare, per cui poi c'è stata l'esondazione sulle località marine confinanti. Ci conferma che è stato evacuato un villaggio di 150 persone? Si tratta di villaggi sostanzialmente occupati principalmente nel periodo estivo, quindi sono tutte seconde case. Noi abbiamo sfollato, io personalmente, almeno 5-6 famiglie. Il numero esatto non glielo posso quantificare, ancora stiamo raccogliendo i dati. Attualmente però sta defluendo l'acqua, per cui le abitazioni sono facilmente raggiungibili. Fino a mezz'ora fa era impossibile, se non con l'elicottero. Quindi al momento le famiglie possono rientrare nelle case o ancora troppo presto? No, non possono rientrare nelle case, perché comunque nelle case è entrato fango, quindi non è possibile, secondo me, cioè materialmente impossibile, non sono agibili in questo momento. Mi sembra di capire però che sono state colpite soprattutto zone dove ci sono appunto seconde case di vacanza. Sì, si tratta di case, sì, è una zona turistica, quindi con case, diciamo, seconde case aperte in periodo estivo. Per fortuna, se si fosse verificato in altro periodo sarebbe stata una strage questa. Anche noi con i mezzi di soccorso anfibi che abbiamo difficilmente siamo riusciti ad arrivare nelle abitazioni occupate in questo periodo. E questa la cronaca dallo specifico territorio di Sellia Marina, ma ci sono anche altre parti della Calabria che sono state colpite. Saluto Saveria Cristiano, che è dirigente della Protezione Civile calabrese. Buongiorno, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Lei tra l'altro ha sorvolato le zone poco fa, sì. Che situazione sì, ha sì, visto? Sì. Io confermo quello che ho sentito poco fa, nel senso che io ho sorvolato la zona dove proprio è straripato l'Uria, relativa a Ruggero e Sellia, e confermo quanto è stato detto. Quella, diciamo, che è stata la zona maggiormente colpita, fermo restando che tutta la parte ionica, da Crotone a Soverato, è stata effettivamente coinvolta, interessata da questo evento atmosferico. Ha detto poco fa ci hanno chiamato da Crotone, dove, diciamo, più ritardo rispetto alle altre zone si è scatenato un temporale che ha creato dei seri danni anche là. Infatti il prefetto ha velocemente convocato il COV, che è il centro operativo di viabilità, proprio per verificare e valutare come operare al fine di risolvere le problematiche. Là è straripato il fiume Neto, quindi di conseguenza anche lì le problematiche sono state identiche a quelle che abbiamo vissuto in quest'altra parte del territorio, questa, diciamo, più vicino al Catanzarese. Dice il prefetto Gabrielli, adesso il capo della Protezione Civile, sì. Speriamo che non ci siano vittime anche in Calabria. Vi risultano dispersi, Cristiano? No. Per fortuna no. Al momento non abbiamo avuto comunicazioni di questo genere, solo relative alla difficoltà, al fango, all'inondazione, alle strade bloccate. Questo sì, tanto, però per fortuna vittime non ce ne sono state. Ci al sono, momento ci no. Sono comuni isolati? No, o meglio, diciamo che ci sono delle strade bloccate che non consentono, diciamo, di scendere verso il Catanzarese, soprattutto per quanto riguarda la zona Silana, però, diciamo, sono situazioni che stiamo affrontando e sono situazioni superabili, quindi diciamo che sono situazioni contingenti in fase di risoluzione. Questo appunto dal punto di vista delle strade, e poi ci sono ferrovie bloccate? Guardi, ferrovie al momento non risultano tratti bloccati dal punto di vista ferroviario, non abbiamo avuto questo tipo di comunicazione. Tra l'altro, come ho già avuto modo di dire stamattina, è stato convocato, è stato aperto, è stato attivato il CCS presso la prefettura di Catanzaro, quindi il centro coordinamento soccorsi, da cui sono arrivate tutte le informazioni su tutto il territorio, che unite a quelle che noi siamo stati in grado di dare hanno permesso di poter fare un quadro abbastanza chiaro stamattina della situazione. Ovviamente anche noi in questo momento stiamo raccogliendo i dati postumi, cioè l'esito di quanto è accaduto, perché noi siamo stati in fase emergenziale stamattina, adesso stiamo raccogliendo il dato effettivo, concreto, al termine chiaramente della fase emergenziale acuta. Le prossime ore come si prevedono? Al momento la situazione si è stabilizzata, non piove, è uscito anche un po' di sole, per cui diciamo ottimisticamente non dovrebbero esserci ulteriori problemi. Grazie a Saveria Cristiano, a dirigente della Protezione Civile Calabrese, per essere stata con noi. Noi ci fermiamo per una pausa, ci sono tra l'altro gli aggiornamenti di borsa e poi ritorniamo in diretta a raccontare quello che è successo e quello che sta succedendo in Sardegna. Un ciclone ha investito la Sardegna, le vittime sono almeno 17, tra cui 4 bambini, ci sono anche dei dispersi. Sono state colpite le province di Olbia, soprattutto Olbia 7, vittime Nuoro e Oristano. Strade interrotte, ponti crollati, scantinati e case allagate. Il governo dichiara lo stato di emergenza, stanziati 20 milioni di euro per tamponare la prima fase, priorità al salvataggio di vite e all'assistenza degli sfollati, dice Letta. La Protezione Civile, per bocca del responsabile Gabrielli, riferisce che in 24 ore è caduta la pioggia che cade in 6 mesi, ma sotto accusa vanno già la gestione del suolo, l'edificazione e la prevenzione. Si sposta intanto la perturbazione, situazione critica in Calabria, dove è stato evacuato un villaggio sul mare nel Catanzarese, non ci sarebbero dispersi né vittime. E noi riprendiamo naturalmente in questa fase a parlare di Sardegna, visto che sono passati alcuni minuti dall'inizio della trasmissione nei quali vi abbiamo riassunto la situazione. Torniamo a fare un quadro mentre in questo momento stanno parlando, dopo una riunione ad Olbia, appunto, proprio il capo della Protezione Civile e tutti gli altri, compreso il presidente della regione Sardegna Cappellari, che dovrebbe essere ospite nostro tra poco. Vi ricordo ancora, tra l'altro, che oggi America 24 non andrà in onda perché dedicheremo ampio spazio appunto a quello che sta succedendo in Sardegna. Abbiamo dedicato un po' di spazio anche a quello che è successo in Calabria, dove si è spostata la perturbazione e, come avete sentito, ha fatto molti danni. E che poi vi ricordo anche che dalle 18 alle 18:30 ci sarà un nuovo speciale di Radio 24 dedicato a quello che è successo. Allora, sono almeno 17 le vittime, queste le notizie che abbiamo fino ad ora, naturalmente, e tra loro 4 bambini. I torrenti sono esondati, le strade sono state invase dall'acqua, ci sono dei quartieri di Olbia nei quali l'acqua è arrivata all'altezza di 2 metri. Ad Olbia, proprio su una strada provinciale, 3 persone sono morte a causa del crollo di un ponte sul quale stavano passando con la loro auto. Altre 2 persone, che erano sempre in auto, sono state travolte dall'acqua e sono morte, ed è stato travolto dall'acqua un altro uomo in una frazione. La 6ª persona morta è stata trovata nella sua casa allagata. Ad Arzachena, una famiglia brasiliana, madre, padre e 2 figli, è stata trovata morta in uno scantinato. In provincia di Nuoro un'auto della polizia è caduta da un ponte, si suppone che sia stata travolta dall'acqua. Un uomo è morto, altri 3 sono gravi. Questa è la situazione. Ci sono naturalmente già polemiche e discussioni sulla gestione del territorio e anche sul sistema di allerta e di soccorsi. Taglia corto il capo della Protezione Civile Gabrielli, che dice: il sindaco di un paese vicino ad Olbia ha dato l'ordine di lasciare il territorio, ma molti cittadini non si sono voluti allontanare dalle loro case, salvo poi richiedere l'aiuto di elicotteri a tarda notte. Quindi da una parte il sistema di prevenzione, da una parte i cittadini che non vi hanno risposto. Anche questo non mancherà di creare polemiche. Saluto Luca Mercalli, che è presidente della società di meteorologia. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Allora, vorrei chiederle innanzitutto e molto semplicemente la genesi di una perturbazione così forte, di quello che forse potremmo definire un vero e proprio tornado. Beh, è una perturbazione mediterranea, una grande depressione autunnale che investe, direi, con una certa regolarità le nostre regioni in questa stagione. Questa tuttavia ha avuto caratteri di intensità che la collocano, insomma, tra gli episodi più intensi, sebbene dai primi dati disponibili non in maniera eccezionale, nel senso che non siamo al cospetto di un episodio visto prima. È un episodio che collocherei, direi, nella top 10 in questo momento, quando degli 20 degli ultimi 50 anni o 100 anni. Ci vorranno un po' di giorni per fare i calcoli esatti quando tutti i dati saranno pervenuti. Non è un tornado. I tornado li abbiamo avuti l'altro ieri negli stati centrali degli Stati Uniti, e sono dei fenomeni molto più limitati, con delle trombe d'aria distruttive. Qui invece siamo soltanto in presenza di forti nubifragi, quindi delle piogge violente. Poi c'è stata anche la mareggiata che nelle zone costiere ha fatto un altro po' di danni, però di fatto è semplicemente una perturbazione mediterranea, una depressione mediterranea di particolare intensità. Mercalli, le chiedo di rimanere con noi perché ho un altro paio di domande, alcune sono quelle che si pongono tutti sull'intensificarsi o meno di questi fenomeni, e dall'altra parte poi appunto l'impatto sul territorio del quale abbiamo già parlato prima parzialmente, però prima abbiamo le informazioni su strade e autostrade e non solo, soprattutto in queste ore particolarmente importanti per la Sardegna e per la Calabria. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Almeno 17 le vittime in Sardegna per le alluvioni e la forte pioggia, tra cui 4 bambini. Ci sono ancora dei dispersi colpite le province di Olbia, Nuoro e Oristano. Strade interrotte, ponti crollati, scantinati e case allagate. La Protezione Civile spiega che in 24 ore è caduta la pioggia che cade in 6 mesi. Il governo dichiara lo stato di emergenza, stanziati 20 milioni di euro per tamponare la prima fase, priorità al salvataggio di vite e l'assistenza degli sfollati, dice Letta. E noi continuiamo dunque a parlare di questa situazione. Siamo sempre in linea con Luca Mercalli, presidente della società di meteorologia, dal quale volevamo capire appunto se questi fenomeni si stanno effettivamente intensificando oppure no. Lei ha parlato di un evento tra i 10 maggiori, questo che ha investito la Sardegna, un evento tra i 10 maggiori negli ultimi 50 anni, probabilmente, almeno dai primi dati che avete, che naturalmente non sono ancora definitivi. Però si stanno intensificando o no? C'è una maggiore frequenza oppure no, Mercalli? E questo non sappiamo, è difficilissimo fare una diagnosi di questo genere, perché se noi facciamo un confronto statistico rigoroso, dovremmo farlo sempre su una stessa località. Allora lì potremmo vedere se effettivamente c'è un trend e gli eventi si intensificano o diventano più frequenti. In realtà questi episodi colpiscono ogni volta delle zone leggermente diverse. In questo caso, tra l'altro, abbiamo una zona un po' più a nord del solito. In genere è l'Ogliastra l'area più colpita da eventi di questo genere. In questo episodio invece abbiamo avuto dei danni in una zona che era un po' meno soggetta a questo genere di eventi. Quindi non è possibile per ora avere una risposta definitiva, così come ci si aspetterebbe da un servizio giornalistico, dove piacerebbe sempre sentire che c'è un bianco e c'è un nero, c'è un cattivo e c'è un buono. In questo caso siamo nel dominio del grigio più totale, nel senso che gli eventi estremi hanno tra l'altro delle implicazioni con il territorio, come noi usiamo il territorio, quindi il numero di vittime, che è il primo indicatore che fa impressione e porta alla notizia, è ovviamente un valore che non è direttamente correlato con la quantità di pioggia. Certo, tanta pioggia uguale più rischio, però anche come usiamo il territorio va a incidere se naturalmente la probabilità che qualcuno fosse sul ponte mentre è crollato, le case costruite nel fiume, la Protezione Civile che ha dato l'allerta e la gente eventualmente l'ha sottovalutata. Ecco, questi sono tutti fenomeni al contorno che, possiamo dire, non c'entrano nulla con l'episodio meteorologico in sé. Quindi non riusciamo per ora a estrarre un segnale significativo sugli eventi estremi. Certamente in Sardegna negli ultimi 10 anni ne abbiamo avuti parecchi. Ricordiamo il caso del dicembre 2004, con una quantità di pioggia addirittura superiore sempre a quella odierna, ma che fece fortunatamente meno vittime. È difficile estrarre un segnale univoco. Grazie Luca Mercalli per essere stato con noi. Gerardo Casciu, sindaco di Uras, uno dei comuni colpiti. Salve, benvenuto. Grazie, buongiorno. Buongiorno, com'è la situazione da voi? La situazione in questo momento si è rimessa a piovere, però diciamo che piove abbastanza lentamente, quindi ci fa ben sperare, anche perché i canali più o meno stanno ritornando alla normalità, quindi l'alveo si sta ricostruendo e anche il canale delle acque alte, diciamo, dove noi confliamo con i nostri due ruscelli, chiamiamoli così, che sono stati dei fiumi in piena questi, ieri e stamattina presto, diciamo, e quindi l'acqua sta scorrendo. Stiamo monitorando comunque sia i ponti per i detriti che sono scesi ieri, e niente, quindi ci fa ben sperare, soltanto che quest'acqua ci impedisce di intervenire più proficuamente per quanto riguarda invece la pulizia del paese, degli scantinati dei cittadini che adesso devono ripulire casa, insomma. Senta, invece venendo a quello che è successo tra ieri e questa notte, come è stato colpito il paese di Uras? Il paese di Uras nell'arco di, proprio esagerando, di 60 minuti è stato coperto d'acqua. Così, proprio posso tranquillamente dire che io alle 9:15 quando sono arrivato in comune avevo già fatto un giro per il canale, perché il mio consuetudine in questo periodo invernale, quando ho delle segnalazioni da parte della Protezione Civile, di farmi un giro per i canali, e alle 9:15 i canali erano ancora tutti tranquilli, quindi non c'era niente che ci facesse immaginare quello che poi è successo. Quindi alle 9:15 tutto tranquillo, un'ora dopo 9:15 diciamo, era tutto tranquillo perché avevamo monitorato abbastanza tranquillamente i canali. Poi è uscito anche l'ufficio tecnico, il responsabile tecnico, a un'ulteriore verifica e sembrava tutto tranquillo. Un'ora dopo il disastro, e c'è anche una vostra concittadina che ha perso la vita. Purtroppo sì, quella è la nota più dura da ingerire, è la nota più dolente, è la nota che ci lascia veramente sconcertati. E purtroppo quando siamo potuti intervenire abbiamo potuto salvare il marito, ma lei ormai, per lei non c'era più niente da fare, e quindi è stata una tragedia nella tragedia, insomma. Grazie sindaco Cascio per essere stato con noi, il sindaco di Uras. Noi chiudiamo tornando a collegarci, come abbiamo fatto in apertura, con Antonella Brianda, collega di Olbia Notizie. Antonella, eccoci. Sì, eccoci. Allora, tu hai seguito la riunione che c'è stata ad Olbia, dove c'era anche il capo della Protezione Civile. Ti stiamo forse strappando alla conferenza stampa conclusiva, quella che ci sta strappando in questo momento Cappellacci, che dovevamo avere in diretta. Però ti chiedo di riassumere che cosa è uscito fino adesso, brevemente. Sì, la conferenza si è appena conclusa e Gabrielli sta rilassando qualche dichiarazione. L'unica cosa che vi posso dire è che è emerso che il numero degli isolati in città si aggira intorno ai 5.000 e non 2.000, come vi ho detto prima, quindi i numeri stanno aumentando. Si sta lavorando, c'è stata una richiesta da parte dei sindaci del territorio colpito, quindi quelli di Tempio o quelli di Arzachena, per riattivare la viabilità, perché nei nostri territori le strade già sono un problema, in più con questa pioggia sono veramente state, sono inagibili alcune. Allora Antonella, ti ho chiesto troppo perché purtroppo dobbiamo chiudere, scopro adesso con un po' di anticipo rispetto a quanto non credessi. Grazie a te, a Pietro Lacorte in regia, Luca Cremonese in redazione, tutta la redazione di Radio 24. Ci sentiamo tra poco con il GR.